prove. Prove di trasmissione. Prove tecniche di trasmissione. Prove tecniche. Ma dobbiamo, avvisiamo che siamo in onda, però. Se non lo diciamo, non si sa che siamo in onda. Lo dico io. Ci vuole il bacio lungo per arrivare al PC e abbassarlo un po'. Egregerrimo, buonasera. Buonasera, siamo qui. Questa è Radio Prove Tecniche di Trasmissione. Radio ZM. Radio ZM, questa è una trasmissione di prova. La prima puntata, tra l'altro. Sì, non verrà trasmesso alcun contenuto. Non verrà siamo abbastanza... letta nessuna notizia. No, ma notizie assolutamente no. No. Verrà, non ci sarà, niente di illegale. Niente di illegale. E solo delle niente, prove. Sa, prova. Basicamente come niente. Si sente? Come si sente? Ce lo dovrebbe dire qualcuno che ci ascolta come si sente. Dunque invitiamo chi ci ascolta magari a mandarci un messaggino dicendo sei basso, sei alto, sei brutto, quelle cose lì. Chissà se ci sentono. Abbiamo un contributo, così vediamo anche come funziona nelle prove di trasmissione. Questa voleva dirci che questo va tutto bene. Tra l'altro in prove di trasmissione noi abbiamo la consuetudine, ormai è già una consuetudine, di mettere il famoso pezzo che ci serve per fare le prove. Mettiamo il pezzo di prova. Direi che si sente bene. No, vabbè, Larsen è ancora. Cioè, pure... signor Larsen. Chiamiamo un attimo il signor Larsen, se potesse gentilmente farsi vivo e farci sapere. Ecco. È arrivato il signor Larsen. Se non c'è Larsen non è una vera trasmissione radio, soprattutto non è una vera prova di trasmissione. Prova di trasmissione. Dopo la rubrica Larsen. Ti abbasso un po' la musica perché secondo me se ci mettiamo più vicini forse è meglio. Tanto. Sì, perché secondo me quando si parla da bisogna abbassare la musica. Sì, forse è molto più meglio. Compressore comprime? Ora comprime meglio. Forse devo, comprime. Vedi che devo parlare più vicino più davanti al microfono, perché se parlo di lato si sente, vedi, si cambia. Così non si sente. Proprio dentro ci devo parlare, ok. Così va molto meglio, direi. Parla. Parlo. Io parlo dritto dentro il microfono, esatto, in questo momento. E basta. Bene, no, bene, no, no, ma va bene, va bene. Giusto. Sa, prova. Prova. Brother, Allora, grande richiesta durante queste prove di trasmissione, metteremo adesso un pezzo dei Goblin, grande gruppo noto soprattutto per le colonne sonore dei film di paura, ma non solo, hanno fatto colonne sonore anche di film, quelli che venivano chiamati poliziotteschi una volta, cioè i film di guardie e ladri, e dunque diamo la parola ai Goblin con il loro La via della droga. Sa, prova. No, non ci sono problemi, ma c'è un altro solo su questo. Non lo so. Ma gli altri se ne sono andati. Gli altri non vogliono fare prove di trasmissione. Sono resti alle prove di trasmissione. Sono allergici alle prove di trasmissione, sì. Sembrano andare bene queste prove di trasmissione. Sì, finora siamo soddisfatti del risultato. I pirulini sono settati al punto giusto. Pirulini, ecco, questa è una bella domanda. I pirulini. Noi davanti a noi abbiamo un mixer in questo momento con tanti pirulini. Cioè pieno di pirulini. Pieno. Se vediamo dal basso verso l'alto, abbiamo il pan, che è quello giallo, che ci sposta il segnale a destra e a sinistra. Che noi generalmente non tocchiamo, lo lasciamo. No, esatto, perché se lo toccassimo saremmo a destra, tutto a destra, oppure tutto a sinistra. Tutto a sinistra, certo. e invece torniamo al centro. Quelli invece che vedo pannati incrociati qua sono sempre sul giallo. Quelli del PC, che sono due canali diversi, e quindi li panniamo uno a destra e uno a sinistra. Per motivi che ignoro. Esatto, i motivi sono molto semplici, sono due canali mono che vanno uniti in un segnale stereo, e quindi a quel punto prendi un canale, il rosso, che è il destro, right, per ricordarsi, rosso, right e left, red è right, Okay. Sempre. Quindi tutti i cavi, di solito il rosso si considera il destro. Quindi in questo caso abbiamo il PC, che possiamo alzare il destro e il sinistro. Ma non sta andando musichetta in questo momento. No, esatto, però lo facciamo con gli slider, che sono appunto tutti shiftati a sinistra e a destra. Come per come abbiamo settato i microfoni, vanno tutto su. Tutto sì, è bene configurare il mixer in modo esatto, che col gain, che è quello in cima rosso. Sì. In modo che quando si tirano su tutti al massimo non si clippi, perché se no si clippa e non è bello, e noi non vogliamo clippare a prove tecniche di trasmissione. Il tappetino musicale è sparito, perché no, in realtà io lo volevo far sentire, perché così facciamo sentire che io, alzando e abbassando gli slider, anziché girare i pirulini, possiamo fare sinistro, destro, sinistro, destro. Ok. Ok. E io e te, che guardi le mie rughe. Io e te, che mangi le mie acciughe, e sei sempre lì a parlare dell'età, ma è proprio necessario. Poi prova che mi domando, e poi è proprio necessario, poi variare uno, vario come me. Io e te, che bella quella canzone. parla della pioggia e della Francia e non fa confusione in mezzo a tutta sta ignoranza. È facile da dire, è proprio necessario. Poi roba che mi domando, e poi tutto da dimostrare, poi che è vero, sì che è vero, vero, che verrà il giorno che spariranno tutti i rompicoglioni. Io sarò pronto lì a parlare e con i limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in giù, uno che canta solo in avio. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni. Una vita E non bastano i piolini, però ci sono anche dei piolini su questo oggetto qui sul tavolo, che non nominerò in questo momento, che ha scritto HM4 4 way headphone amplifier. Esatto, questo praticamente è il ritorno della che ci porta il segnale alle cuffie e alla cassa che abbiamo sul tavolo, che noi, cuffie e... che noi in questo momento non stiamo usando, perché queste sono le prove, sa, prove tecniche. Abbiamo comunque, le cuffie funzionano, sento da sopra che c'è le cuffie funzionano, ci portano dei taralli, ci portano dei taralli, ma questo, ma noi non possiamo non mangiare i taralli davanti al microfono, perché ma si sentirebbe è estremamente fastidiosa come cosa. Poi soprattutto taralli senza vino non, no, non esatto, cosa, esatto, se no non finiamo a tarallucci e vino. E dunque in questo momento direi che possiamo mettere un bellissimo pezzo dei No Tanto Sta Arrivando Altra Gente. Tanto sta arrivando altra gente, che adesso si sta popolando la regia e... si sta popolando la regia. Dunque mettiamo il pezzo dei NoFX allora. Sì, è il momento di mettere. E via che sia. Alza i pirulini però. Abbassa anche quelli. Questa del... è Tenderloin. Abbassa anche quelli del. Abbassa del microfono, sì, abbassa. Abbiate il coraggio di venire a parlare al microfono a queste prove di trasmissione. Ci sono tutte le canzoni sul desktop. Si potrebbe fare una cartellina e metterle tutte lì dentro. Un po' di ordine. Io non toccherei, però non so. Questo in una trasmissione normale, non a prove tecniche di trasmissione. Prova. Si sente. Questa trasmissione non ha nessun contenuto. È solo una prova. Questa è una trasmissione di prova. Abbiamo davanti, parlando sempre di prove tecniche di trasmissione, anche una scheda. Sono le ore 19:56. Oh, vedi che questo è quasi un servizio pubblico. Nel caso che qualcuno ci ascoltasse e volesse sapere che ore sono, noi stiamo anche per ordinare le pizze. Dunque, se volete una pizza, esatto, ce lo fate sapere qua. E noi ordineremo le pizze anche, certo, per voi. E, abbiamo qua una scheda audio bianca. Della Native Instruments? No, è un adesivo, è della Yamaha. Ah, è una Yamaha, ma certo. È così bello il Native Instruments che sembrava la sua. E la Yamaha, l'audiogramma, si chiama audiogramma apposta, L'audiogamma in realtà funziona benissimo. È una Yamaha made in Japan. Ha tre pirulini davanti, uno è tutto a sinistra. Uno è tutto a sinistra perché è chiuso, perché non è attaccato il primo canale. E dunque lo teniamo tutto d'ingresso. A sinistra perché è meglio così. Cioè, esatto. Così non, poi abbiamo il canale d'ingresso. Che aspetta, qua abbiamo il Phantom che non usiamo. Non usiamo perché non abbiamo nessun strumento che abbia bisogno, del Phantom Power, alimentato. Che è come un microfono o altre minchiate. Sa, prova. E poi abbiamo il pirulino del livello. Il pirulino del livello del secondo canale, dove invece è attaccato il ritorno del compressore. Infatti io adesso, mentre sto parlando, c'è il compressore che lampeggia e sta iniettando segnale dentro la Yamaha. Noi vorremmo tanto che voi foste qua con noi a vedere il compressore che lampeggia, perché è un gran bello spettacolo. Esatto, sì, noi veniamo spesso qua anche a Natale. Soprattutto a Natale. Sì, sì. E cantiamo le canzoni dentro il microfono di Natale e si illumina. E le lucette, esatto. Ed è così sappiamo che è Natale. E poi abbiamo il volume. Il volume di uscita, esatto, con due leddini accanto. Questo due... è importante, nel senso che questo se lo tocchi. Se lo tocchi può distorcere un po', perché. Faccio una prova. Lo abbasso tutto. Lo abbassi tutto? No, in realtà non. In realtà non è successo niente, perché i microfoni entrano dall'altra parte. Ah, ok, è vero, perché non c'è nessuna uscita. E questo potrebbe servire per la musica, o potrebbe servire per niente. No, infatti, lascialo lì. Allora lo lascio tutto basso. E quell'altro che invece. E quell'altro. Lin. Questo è l'in. Sì, no, l'altro se l'in te lo abbassi, è... per esempio, non si se sente. Se questo lo abbasso, più cazzo. No, invece continuiamo a sentire. Vabbè. Ma forse non stiamo streamando. Forse non stiamo più streamando. Dovremmo provare ad ascoltare lo stream per avere la certezza. Però... Allora, mentre proviamo a cercare di prendere lo stream, mettiamo un pezzo che è particolarmente caro, ed è Six to Go dei Pogues. Farlo, attenzione. Cosa volevi sapere? Se abbassiamo, ci senti... abbassa lì quello, allora, abbassalo a 0, a 0. Questo l'ho abbassato a 0. 0, 0, 1, 2, 3, giralo 1, giralo 1. Abbiamo il lag. Giralo 1. E non è ancora giralo 2, giralo 3, giralo 4, giralo 5. Rimettilo come era prima. Gira. Cioè, hai sentito le nostre voci? Ma ci, senti ancora tutto il tempo, porco adesso Dio. L'ho abbassato tutto, mi senti ancora? Non è possibile. Bla bla bla. No, non è possibile perché c'è un lag che ancora... Adesso dirò la parola magica carciofo. Quando la parola magica la parola carciofo magica è carciofo. Dovresti ascoltare la parola magica carciofo. È andata in onda la parola magica carciofo? Non ancora. La parola... È andata in onda la parola. Allora sappiamo che questo cursore qui non serve a una, è una benevata, e possiamo circa. Tenerlo tutto su, insomma, questo qua. Che bella la vita. E dunque era Six to Go dei Pogues. Mi sono appena accorto che su MixXX c'è il pulsante H e il pulsante G, che sono comodissimi in quanto posso regolare piatto 1, piatto 2. Perciò in questo senso su piatto 2 sta andando qualcosa, ma noi non lo sentiamo. E io adesso pigio pulsante H e arrivo a piatto 2, dove rifallo. Dove i Ramones stanno andando tranquillamente, così non devo tirare sul cursore del coso, posso lasciarlo su. È un po' avventurosa come cosa, ma potrebbe servire anche questo. E questo dunque è Beat on the Bread dei Oh, arriva altra gente. Oh yeah, oh, oh. Prove tecniche di trasmissione. Sa, prova. With liquor and drugs and a sex machine, he is gonna do another striptease. Hey man, where'd you get that notion? I've been walking on the sidewalk. No more beat my brain. No more beat my brain. For liquor and drugs and sex machine. Well, I am just a modern guy. Of course, I've had it in the ear before. I got lust for life. I got lust for life. Well, I'm worth a million in prizes. E chiamiamo le pizze, ci diamo... Sì, direi di chiamare le pizze. Siete sempre all'ascolto di prove tecniche di trasmissione. Ma lasciamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto o li salutiamo? Ma direi che li salutiamo. No, quanti minuti è che stiamo trasmettendo? Beh, già 23. Già 23 minuti. Beh, dai, allora siamo soddisfatti. Avevamo detto che avremmo fatto una mezz'oretta di prove tecniche di trasmissione. Sa, e così è stato. Sa, prova. E allora vi lasciamo con un altro pezzo musicale. Questa volta sono i Drifter and... la canzone si chiama Drifter and Rollers e sono i Good, the Bad and the Queen. Un bel pezzo.